Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Diti una mano sul cuore. Senza cuore. Dico col cuore in mano. Tuffo il cuore. Chi non ha mai usato una di queste frasi in vita sua? Per esprimere l'amore, un moto dello spirito, il sentimento più profondo, usiamo sempre la stessa parola, cuore. Quest'organo è considerato la sede dei sentimenti sin dall'antichità. Per i romani era il dio Apollo, che con una freccia invisibile decideva quando bloccarlo per sempre. Poi, seguendo i progressi della scienza, grazie soprattutto all'opera rivalutata di Galeno, famoso medico dell'antica Grecia, si capì che il suo arresto improvviso non era dovuto all'umore variabile del bellissimo dio che si divertiva a tirare con l'arco, ma molto meno poeticamente la colpa era da attribuirsi all'occlusione di un'arteria coronarica. E così il cuore passò all'istante dalla condizione di sede dell'intelletto, come pensavano i sumeri, o di padrone assoluto del corpo, come veniva chiamato dagli egizi, a quella di una pompa adibita a un lavoro esclusivamente meccanico, anche se vitale. Ma nonostante questo, sicuramente risulta più poetico dire alla propria innamorata «Ti amo con tutto il mio cuore», piuttosto che «Ti amo con tutto il mio cervello». Il cuore batte all'incirca tra le 60 e le 80 volte al minuto, ma di fronte a una qualsiasi emozione, che sia gioia o paura, amore o terrore, si mette a battere all'impazzata, accelerando fino anche al doppio. L'equivoco in cui caddero gli antichi e in cui in una certa misura tendiamo a cadere anche noi oggi è dato dal fatto che noi ce ne accorgiamo. Infatti il cuore è l'unico organo che noi possiamo sentire funzionare. Gli studi della medicina moderna ci hanno permesso di conoscere quale sia la reale sede dei nostri sentimenti, cioè il cervello. È lui che comanda al cuore di battere più forte perché prevede di avere bisogno di un maggiore apporto di ossigeno per affrontare una qualsiasi emergenza, che sia per amore o perché stiamo facendo jogging, come sottolinea Tim Borland, famoso trainer americano di corsa e maratona. A jogging la cosa più importante è riuscire a stare rilassati. Questo perché se il cervello che comanda tutto il corpo è tranquillo, allora dirà al nostro cuore di battere in maniera normale e tutto l'ossigeno che riceveremo potrà essere impiegato dalle nostre gambe per correre meglio. Ricordiamoci sempre che è la nostra mente che comanda il corpo, non viceversa. Il fatto di sapere che il nostro cuore altro non è se non una pompa meccanica che spinge il sangue nelle vene ha facilitato molto l'approccio positivo nei confronti del trapianto di quest'organo, che in altri tempi ha scatenato pareri opposti. Come sarebbe stato possibile trapiantarlo se fosse stato la sede dei nostri sentimenti? Significava trapiantare anch'essi da una persona all'altra? Per fortuna non è così, e anche se indubbiamente pensare al trapianto del cuore crea ancora alcune reticenze rispetto ad esempio al trapianto di un rene o del fegato, di certo oggi come oggi le cose sono cambiate parecchio. Sono nate numerose associazioni di donatori che decidono in vita di iscriversi alla cosiddetta donazione samaritana. Sentite cosa dice in proposito Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Italiano Trapianti. Questo donatore sarà sottoposto ad accertamenti di tipo clinico e ad accertamenti di tipo psicologico e psichiatrico. Si tratterà di capire la sua motivazione, la libera scelta di donare, la maturità della persona, e si tratterà anche di capire che sia davvero idoneo. Quella che è considerata oggi come una procedura medica standard, il trapianto di organi, è in realtà qualcosa di molto giovane nella storia dell'umanità. Sono pochi decenni che i trapianti si effettuano di routine. Bisogna andare invece molto indietro nel tempo per tornare al primo trapianto della storia. Un'antica tradizione fa risalire la nascita dei trapianti al III secolo d.C., quando i santi Cosma e Damiano sostituiscono in modo miracoloso la gamba andata in cancrena del loro sacrestano con quella di un moro etiope deceduto poco prima. La moderna scienza dei trapianti ha inizio nel 1902 a opera del chirurgo francese Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina nel 1912, il quale mette a punto un sistema per suturare tra di loro i vasi sanguigni. Grazie a questa tecnica innovativa vengono eseguiti i primi trapianti di rene da animali in pazienti con gravi insufficienze. Queste primitive esperienze dimostrano, nonostante la brevità della ripresa funzionale degli organi trapiantati, la reale possibilità di sostituire un organo malato con un organo sano. è l'inizio di una nuova era. Un ulteriore passo in avanti nella storia dei trapianti arriva negli anni 40, quando durante la Seconda Guerra Mondiale il dottor Peter Medawar tenta il trapianto di innesti cutanei in pazienti gravemente ustionati in occasione dei bombardamenti di Londra, scoprendo così le basi della compatibilità biologica. Il grosso problema che i chirurghi pionieri dei trapianti si trovano ad affrontare è il rigetto, ovvero il rifiuto da parte dell'organismo ospite di tessuti e organi estranei. Non disponendo ancora di farmaci immunosoppressori efficaci, il rigetto risulta determinante per l'insuccesso del trapianto. Ma lo sviluppo della ricerca porta al primo vero trapianto che viene effettuato a Boston nel 1954. Il chirurgo Joseph Murray esegue un trapianto di rene da donatore vivente consanguineo e geneticamente identico al ricevente. Il primo trapianto di fegato viene eseguito invece nel 1963 a Denver dal dottor Thomas Starzl su un bambino di 2 anni. Ascoltiamo il suo ricordo di quei momenti. Nei 50 il concetto di trapianto appariva qualcosa di troppo grande per tutti noi, ma al tempo stesso sentivamo l'esigenza di ottenere risultati in questo campo. La ricerca ci stava insegnando che si poteva tentare, che era una follia arrendersi di fronte alle difficoltà. Quando nel 63 tentai il trapianto di fegato per la prima volta al mondo, ero convinto ma spaventato. Si trattava di un bambino di soli 2 anni, ma se non avessimo perseverato, oggi non saremmo arrivati dove siamo. Sono anni di puro pionierismo medico, ma ancora non si sente parlare del trapianto più importante di tutti, quello che appare il più folle, ma allo stesso tempo quello che è in grado di salvare un numero incredibile di vite, il trapianto del cuore. Come facile immaginarsi, in quegli anni esso appare semplicemente impossibile. Per tutti è una pratica sperimentale da effettuarsi solo sugli animali, ma c'è un uomo, forse più folle di tutti i suoi colleghi medici, che la pensa diversamente. Dobbiamo percorrere parecchia strada per andare dove quest'uomo studia, sperimenta, prova. Dobbiamo arrivare fino al Sudafrica, a Cape Town. Capitale legislativa e terza città più popolosa del Sudafrica, Cape Town viene fondata alla fine del XVII secolo dalla Compagnia delle Indie Olandesi Orientali come punto di scalo e rifornimento per le navi che vanno in Asia. La città è tristemente famosa per il regime di segregazione razziale che qui ha radici più profonde rispetto ad altre aree del paese, tanto che già nel 1901, cioè 40 anni prima dell'inizio ufficiale dell'apartheid, le autorità cittadine confinano la popolazione nera nelle township di Cape Flats, zona pianeggiante a sud-est del centro, divenuta presto il ghetto nero. È in questa città, dove la cultura nera e quella bianca si scontrano quotidianamente, che un giovane cardiochirurgo sta coltivando il suo sogno. Ogni giorno si reca in ospedale, dove sta portando avanti alcuni esperimenti personali. Lui lo sa, se lo sente, che può farcela. Il suo è un progetto ambizioso, anzi, il più ambizioso mai pensato fino a quel momento da un medico. Sono centinaia, migliaia le persone malate che attendono in tutto il mondo. Lui deve fare presto perché vuole salvarle tutte. Il suo sogno e il progetto per il quale lavora febbrilmente, giorno e notte, 7 giorni su 7, è quello di riuscire a trapiantare il cuore. A Cape Town, in Sudafrica, nei laboratori di ricerca del Groote Schuur Hospital, l'avveniristico complesso sanitario costruito come ospedale dell'Università di Medicina della città, un giovane medico specializzato in cardiochirurgia sta eseguendo alcuni test che gli permettono di portare avanti i suoi studi. Quello che ha in mente è qualcosa di mai provato al mondo: il trapianto umano del cuore. Questo giovane medico, che non si ferma né di fronte alle difficoltà, né tantomeno di fronte al pensare comune di quegli anni, che ritiene il trapianto di cuore un'impresa assolutamente impossibile, è il primo personaggio di Destini Incrociati di oggi. Il suo nome è Christian Barnard. Christian Barnard. Il percorso professionale di questo ricercatore è estremamente brillante, ma bisogna tornare indietro alla sua infanzia per meglio comprendere le motivazioni che lo spingono a voler tentare un'impresa così impegnativa, al limite delle possibilità umane. Beaufort West è la più antica e popolosa città del Grande Karoo, regione desertica del Sudafrica, conosciuta soprattutto per i ritrovamenti archeologici di antichi insediamenti boscimani, in particolare per la scoperta dei cosiddetti gong di roccia, curiosi strumenti musicali a percussione in pietra. È qui che nel 1922 nasce Christian Barnard. Suo padre è un missionario della chiesa protestante olandese e insegna ai suoi 5 figli l'amore per il prossimo. È così che il piccolo Christian impara da subito a non fare differenza fra neri e bianchi, una caratteristica che lo accompagna tutta la vita e che lo vede strenuo sostenitore di Nelson Mandela. In più di una occasione Barnard cita la poesia di William Henley che Mandela si ripete per 28 anni durante la sua prigionia. Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non si è piegata la mia testa. Di là da questo luogo di ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Essere dalla parte dei più deboli, degli oppressi, aiutare quelli che hanno bisogno, che soffrono, è insito nel DNA del piccolo Christian. Ma un altro fatto concorre a tracciare definitivamente la sua strada. Uno dei suoi fratelli si ammala gravemente di cuore. Mentre guarda i volti contratti dalla preoccupazione dei suoi genitori, prende la sua decisione: studiare medicina per poter curare e salvare più gente possibile. È così che diventa cardiochirurgo. Barnard inizia a lavorare al Groote Schuur, il modernissimo ospedale di Città del Capo, ma la sua determinazione, la passione che mette nei suoi studi, nella pratica di medico tutti i giorni e nella volontà di salvare ogni vita umana lo fanno notare alla commissione interna dell'ospedale. È il 1956, quando Chris, mentre sta facendo il suo normale giro di visite in ospedale, si vede recapitare una lettera. Egregio dottor Christian Barnard, abbiamo il piacere di comunicarle che la commissione interna del Groote Schuur Hospital di Cape Town ha deliberato di assegnarle una borsa di studio della durata di 2 anni, che le permetterà di perfezionarsi in cardiochirurgia toracica presso il notissimo professor Owen Wangestin di Minneapolis. Ci complimentiamo con lei e le auguriamo un buon soggiorno negli Stati Uniti d'America. Mentre sta leggendo la lettera, Barnard si rende conto che quel momento rappresenta per lui uno spartiacque determinante nella sua vita. Inutile dire che le tecniche di cardiochirurgia del professor Wangestin sono estremamente innovative e poter venire in contatto con un ricercatore di quel calibro rappresenta un'opportunità eccezionale per qualsiasi medico. Inoltre, per lui che non è mai uscito dal Sudafrica, un'esperienza del genere è comunque una novità più che piacevole. È con questo spirito di estrema soddisfazione che parte per il Minnesota. Nei 2 anni successivi, Christian Barnard sperimenta nuove tecniche e conosce Norman Shumway, un cardiochirurgo statunitense che come lui è convinto di poter realizzare prima o poi un trapianto di cuore. I due si confrontano, studiano, sperimentano, ripetono le tecniche apprese da Wangestin su delle cavie animali. Dopo 2 anni di lavoro incessante, Barnard si sente pronto a tornare nel suo paese. Rientrato al Groote Schuur, ai propri superiori che gli chiedono com'è cambiata la sua vita dopo quei 2 anni negli Stati Uniti, il cardiochirurgo risponde con una metafora. La conoscenza è come una montagna che va scalata. Quanto più alta è l'ascesa, tanto più vasto sarà il panorama. In effetti, l'esperienza americana porta Barnard a perfezionarsi nelle tecniche del trapianto. Riesce quindi a ripetere l'operazione di un trapianto del rene già avvenuta con successo negli Stati Uniti, ponendo l'attenzione mondiale su di lui e sul suo ospedale, il Groote Schuur, che sempre di più si dimostra essere un'unità sanitaria di grandissimo livello. ma il nostro protagonista ha sempre in mente lo stesso pensiero. Sono in tanti, troppi, coloro che soffrono di problemi cardiaci e lui non avrà pace fino a quando non sarà in grado di effettuare il trapianto più difficile, il più rischioso, ma anche quello più atteso, il trapianto di cuore. Destini incrociati. Destini incrociati vi porta oggi in Sudafrica, a Cape Town, nel famoso Groote Schuur Hospital, dove il giovane cardiochirurgo Christian Barnard studia da anni per compiere un'impresa mai realizzata al mondo. Dopo essersi specializzato negli Stati Uniti e aver effettuato diversi trapianti di rene, il chirurgo sta sperimentando sugli animali il più difficile, il più rischioso degli interventi, quello che centinaia di persone attendono con ansia in tutto il mondo, il trapianto di cuore. Le difficoltà che Barnard e la sua equipe della divisione coronarica si ritrovano a dover affrontare paiono insormontabili. In primo luogo, è necessario trovare un donatore. Va ricordato che in quegli anni ancora non esiste una cultura collettiva riguardo alla questione. Le associazioni di donatori di sangue e di organi sono ai loro primordi. La gente crede perfino che ci siano controindicazioni religiose. Sentite invece cosa dice al riguardo il Monsignor Domenico Graziani, vescovo di Crotone. Per far risaltare la bellezza dell'atto conclusivo, cioè la consacrazione della volontà di donare l'organo, presuppone anche in questo caso un percorso che mette insieme da una parte la sacralità della vita, l'indisponibilità della vita, però dall'altra parte anche la capacità e di superare l'identificazione tra la vita della persona e nella sua completezza con l'organo singolo. Io utilizzo me stesso, dispongo di me e in qualche modo io mi privo di me, mi svuoto di me per andare incontro al fratello. Ecco, la donazione dell'organo da questo punto di vista è l'esaltazione della fraternità. È l'esaltazione della condivisione, è l'esaltazione della comunione con il fratello. Un altro problema che appare negli anni 60 difficilmente superabile è quello legato ai rigetti. Si parla di rigetto quando il sistema immunitario di un paziente che è stato sottoposto a trapianto attacca il nuovo organo, riconoscendolo infettivo alla stregua di batteri o di virus. Quando Barnard è intento alla sua sperimentazione, è la questione che maggiormente lo preoccupa. Sa bene, infatti, che i farmaci immunosoppressori che inibiscono l'attività di rigetto indeboliscono chiaramente le difese dell'organismo, già provato dalla malattia e dall'operazione, e mettono a serio rischio la vita del paziente. Ma nonostante questo, Barnard persevera. La scienza e la medicina non si possono fermare. Il progresso deve andare avanti e permettere la realizzazione di operazioni che salvino la vita a migliaia di pazienti, la cui esistenza è preziosissima, come dice egli stesso. La vita di un essere umano è non meno preziosa di tutte le altre vite messe insieme. Il compito del medico è preservare questa vita il più a lungo possibile. Per realizzare il trapianto di cuore, Barnard ha bisogno di una serie di specifiche. Una squadra permanente addetta ai trapianti con un nucleo fisso, sale operatorie per la preparazione dei pazienti e assistenza prima e dopo l'intervento. Infine, un sistema per ottenere i donatori e farmaci specifici per combattere il rigetto. Inoltre, bisogna stabilire le regole del donatore. L'organo da trapiantare deve essere normale e sano. Per ridurre al minimo il rigetto, deve esservi compatibilità tra i gruppi dei globuli rossi del donatore e quelli del ricevente. Il donatore non deve soffrire di malattie infettive. È necessario, chiaramente, il consenso all'asportazione degli organi e agire immediatamente prima che l'organo divenga inservibile. Mentre stila la lista di queste specifiche, Barnard sente tutto il peso di queste difficoltà. ma la sua determinazione è più forte. Al Groote Schuur Hospital di Cape Town, in Sudafrica, l'atmosfera è estremamente elettrica. Il cardiochirurgo di punta dell'ospedale, Christian Barnard, sente di essere pronto per tentare un'operazione mai provata fino a quel momento: il trapianto di cuore. Il giovane Chris è mosso da motivazioni che risalgono ai primi anni della sua formazione, a quanto gli è stato trasmesso nella giovinezza dal padre, missionario protestante, che rappresenta per lui un modello di vita. E non solo. Anni in qualità di medico in ospedale lo hanno avvicinato a persone di ogni genere, giovani, vecchi, ricchi, poveri, bianchi e neri, che devono ogni giorno fare i conti con la malattia. Chris sente con tutto se stesso che deve fare qualcosa. Per questo insiste con il primario di cardiochirurgia del Groote Schuur, il professor Van Schrier, ma trova parecchie reticenze. Poi, dopo alcuni mesi, una mattina di novembre del 1967, viene convocato nel suo ufficio. «Senti Chris, gli dico, credo di avere un paziente adatto per il trapianto di cuore. Mettiti in contatto con il dottor Barry Kaplan della clinica per malattie cardiache. Lo sai che sono pieno di dubbi, ma credo che siamo pronti per tentare». Queste parole, quelle che Barnard sta aspettando da anni di sentirsi dire, rappresentano l'inizio di un'avventura che vede il cardiochirurgo impegnato in un'impresa mai tentata al mondo. Quando entra nella stanza del reparto di cardiologia del Groote Schuur, accompagnato dal dottor Kaplan, Chris ha il cuore che gli batte talmente forte da fargli pensare, non senza un certo divertimento, che se non si calma dovranno curare lui. Di fronte a sé ha un uomo, un malato che ha accettato di incontrarlo e di mettere il suo destino nelle mani di quel giovane cardiochirurgo. L'uomo, malato da tempo, ha saputo dal suo medico curante di questo cardiochirurgo e di quello che ha in mente. Quando se lo vede comparire davanti, la prima sensazione che ha è di trovarsi di fronte a un uomo estremamente preparato, ma anche molto partecipe. Quel giovane medico, dal viso intenso, lo sguardo tagliente e un aspetto quasi fanciullesco, dimostra un grande trasporto verso di lui e la sua sofferenza. L'uomo malato sente che il destino, questa volta, ha voluto mettergli sulla strada qualcuno che può veramente cambiare le sorti della sua vita. Lui è il secondo personaggio di Destini Incrociati di oggi e il suo nome è Louis Waskansky. Louis Waskansky. Destini incrociati. A Destini incrociati vi stiamo raccontando oggi una storia molto particolare. Quella di un evento che ha rappresentato qualcosa di grandioso nella storia dell'umanità. Il primo trapianto di cuore. Il cardiochirurgo sudafricano Christian Barnard, dopo aver studiato per anni ed essersi anche specializzato negli Stati Uniti, è ora pronto con la sua unità coronarica e con il suo team del Groote Schuur Hospital di Cape Town a realizzare il primo intervento al mondo. Il paziente che attende un cuore nuovo è Louis Waskansky. Ma chi è quest'uomo, purtroppo malato, che decide di mettere il proprio destino nelle mani di quel chirurgo tutto sommato giovane e che soprattutto non ha mai sperimentato un'operazione del genere così rischiosa, complessa, tanto da non essere mai stata tentata da nessun altro chirurgo al mondo? Di origini ebreo-lituane, Louis Waskansky da giovane è un grande sportivo. Gioca a calcio, è un abile nuotatore e fa anche sollevamento pesi. La sua famiglia, emigrata in Sudafrica nel 22, ha un piccolo negozio di generi alimentari. Quando arriva al Groote Schuur nel 1967, Waskansky ha 54 anni e soffre di una grave patologia al cuore che gli provoca il cosiddetto respiro di Cheyne-Stokes o respiro periodico. Alterna fasi di apnea anche lunga a fasi in cui passa gradatamente da una respirazione profonda a una sempre più superficiale, che termina nuovamente nella fase di apnea. Questo disturbo, che può prolungarsi per diversi giorni, ma solitamente è transitorio, è diventato per lui una costante. Solitamente, quando sopraggiunge tale stato, non c'è più molto da fare, ma Lewis ha una gran voglia di vivere. È lui che costituisce la vera forza per Barnard. In una lettera che gli scrive alcune settimane prima dell'intervento, l'uomo cerca di spiegare al chirurgo il suo stato d'animo. «So che potrei non farcela, ma so anche che se non tentiamo non potrò farcela di sicuro. Quello che sento, dottor Barnard, faccio fatica ad esprimerlo. È una di quelle cose che si possono spiegare solo in termini di volontà di vivere. La vita in me è più forte, più determinata di qualsiasi rigetto, di qualsiasi virus, perfino più forte della mia stessa paura». I tre mesi successivi sono febbrili per Christian Barnard. Segue un corso con il professor David Hume, specializzato in controllo del rigetto. Contemporaneamente, prepara Lewis Vaskansky a ricevere il cuore nuovo. Alla fine delle terapie, il suo sistema immunitario è completamente inattivo. Tutto quello che viene in contatto con lui da ora in poi deve essere assolutamente sterile. Tra i due si instaura un rapporto fatto di fiducia e speranza. Spesso Chris si ferma a osservare Lewis mentre dorme. Gli sguardi che scambia con Anne, la moglie del suo paziente, sono colmi di significato. Finalmente tutto è pronto, e ora bisogna attendere un cuore compatibile e che fugga dalle possibilità di rigetto. L'occasione si presenta il 2 dicembre, quando a seguito di un grave incidente arriva al Grutty Shore una ragazza alla quale viene diagnosticata la morte cerebrale. È questo un concetto molto moderno che negli anni 60 non è ancora così chiaro e desta alcune incomprensioni. Si tende infatti a far confusione tra coma, morte cerebrale e morte cardiaca. Sentiamo la spiegazione della dottoressa albanese, esperta in rianimazione. Il coma è una patologia reversibile, riguarda la perdita di coscienza ed è reversibile. Dal coma ci si sveglia con i danni, senza danni, ma ci si sveglia, perché è sempre una patologia reversibile. La morte cerebrale è un danno irreversibile di tutto l'encefalo, non riceve più sangue, più ossigeno e muore. E una volta morto il cervello, l'individuo è morto. Gli organi vengono tenuti in vita dalle attrezzature della rianimazione, dal nostro lavoro, perché noi, una volta accertato che quel paziente non è più un paziente ma un cadavere, curiamo i suoi organi, perché se quello è un donatore è giusto che gli organi siano nelle migliori condizioni per funzionare nel ricevente. Barnard parla con il padre della ragazza. Il chirurgo sa che per lui è un momento tragico. Ha appena perso una figlia giovanissima, ma è certo che acconsentirà alla donazione. In effetti, i suoi argomenti sono molto validi. Lewis Vaskansky aspetta da mesi un cuore compatibile e ora ci siamo. Il consenso arriva. È il 3 dicembre 1967, una data che rimarrà nella storia dell'umanità. Barnard è concentratissimo, tutto è pronto per il trapianto. Lo sguardo che scambia con il suo paziente prima dell'intervento è di quelli che non hanno bisogno di altro. Le parole sono inutili. Il trapianto è condotto da Christian Barnard, assistito dal fratello Marius, anch'egli medico, e da un team di una trentina di persone. Il cardiochirurgo è teso come una corda di violino. Anche se la sua preparazione è stata talmente minuziosa, ogni movimento è stato ripetuto decine di volte e nulla è lasciato al caso. Dopo 9 ore in sala chirurgica, il nuovo cuore viene impiantato nel corpo di Vaskansky e funziona regolarmente. Quando Lewis si risveglia e apre gli occhi, il primo sguardo che incontra è quello del suo chirurgo. Chris è estenuato, ma felicissimo. Penso che si sia trattato di un intervento certamente complesso, ma anche molto ben studiato sulla carta, e quindi non abbiamo avuto sorprese. È andato tutto bene, il paziente vive con il cuore nuovo, le sue funzioni sono regolari. Ho la consapevolezza di aver vissuto un evento unico. Sono il solo medico al mondo ad aver visto un paziente senza cuore, tenuto comunque in vita. La sensazionale notizia fa il giro del mondo in poche ore. Barnard diventa l'uomo del momento. È conteso dai telegiornali di tutto il pianeta, i talk show lo vogliono come ospite d'onore, un'attenzione mediatica immensa si riversa sul giovane cardiochirurgo. Nel frattempo, le condizioni di Louis Vaskansky appaiono buone. Si sente bene, compatibilmente con l'intervento così invasivo che ha subito, ma soprattutto è grato al suo medico per avergli dato una possibilità di vita nuova. Purtroppo, a causa dei farmaci immunosoppressori, Louis si ammala di una brutta polmonite che nel giro di poche settimane lo porta alla morte. Per Christian Barnard è un duro colpo. Quell'uomo ha avuto fiducia in lui, si è affidato completamente nelle sue mani e ora purtroppo non ce l'ha fatta. Ciò nonostante, l'intervento chirurgico di Christian Barnard viene considerato un vero successo, in quanto il cuore trapiantato non era stimolato elettricamente da una macchina, ma dall'organismo dello stesso Vaskansky. Con questo primo trapianto si apre una nuova era della medicina e una nuova era dell'umanità. Senza l'esperienza dell'incontro col destino di Vaskansky, nulla di questo sarebbe stato possibile. Nei 2 anni successivi, Barnard effettua altri 2 trapianti. Nel primo, il cuore di un nero viene impiantato nel corpo del dentista bianco Philip Bleiberg. Nel secondo, una donna di colore, Dorothy Fisher, riceve invece il cuore di un bianco. Per questi trapianti, Christian Barnard viene insignito del premio Uomo dell'Anno dall'Unione degli Stati Africani. Non solo per le sue doti di cardiochirurgo, ma per avere combattuto contro ogni forma di razzismo, effettuando trapianti fra bianchi e neri. Alla sua morte, avvenuta nel 2001, il grande Nelson Mandela, primo presidente del Sudafrica dopo la fine dell'apartheid, lo ricorda durante un suo discorso. Tian Barnard non è più con noi. È una grande perdita per il nostro paese. È stato una voce viva contro l'apartheid. Il suo spirito darà sempre forma ai nostri cuori. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.